我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。遨游缤纷多彩的 CD 世界，带您畅享音乐的盛宴。北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天7点19点播出 CD 博览。 欢迎收听 CD 博览，我是你的朋友古月。在今天的节目中，请欣赏基卡唱片公司2007年出版的帕瓦罗蒂纪念专辑《永远的帕瓦罗蒂》，其中收录的有帕瓦罗蒂演唱的歌剧选曲、艺术歌曲和意大利歌曲。接下来请您欣赏帕瓦罗蒂的演唱。

Un trono vicino alla Questa quella per me pari sono a quant'altre tre intorno, intorno mi vedo. Del mio cuore l'impero non cedo, meglio ad una che ad altra beltà. La costoro apparenza è quel dono di che il fato ne infiora la vita. So di questa mi torna gradita, forse un'altra, forse un'altra, domanda sarà un'altra, forse un'altra, domanda sarà. La costanza tiranna del cuore detestiamo, quel morbo crudele. So chi vuole si servi fedele, non m'avorno se non v'è libertà. Dei mariti il geloso furore, degli amanti le smania, da rido, anco d'arco, se tocco di sfido, se mi punge, una qualche beltà, se una qualche beltà. Thank you.

ghiaccio. Vesti la giubba e la faccia in farina, la gente va. Oh. Tu m'appartieni, tu m'appartieni a me, a me. tra voi belle brune bionde si nasconde giovinetta vaga e mezzosa dal labbro rosa che m'aspetta. Sei tu bionda stella, dillo a me, palesate il destino e il divino viso ardente che m'innamori, ch'io vegge adori eternamente. Tra voi belle brune bionde si nasconde giovinetta vaga e mezzosa dal labbro rosa che m'aspetta. Sei tu bruna stella, dillo a me. Thank you. 我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的